Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buon pomeriggio e buona domenica a tutti voi in contatto con Radio 24. Buon pomeriggio al nostro Francesco Tromba da Gegè Telesforo, oggi prontissimo per dare il via al secondo appuntamento settimanale del nostro Soundcheck, la nostra prova del suono. Sì, siamo tornati con la puntata di ieri e oggi affronteremo il talento di grandi musicisti della nuova e della passata stagione. Intanto torneremo anche alle 19:15 per la seconda parte dedicata alle sonorità più jazz. Ma veniamo a noi, mio caro Francesco Tromba, ti vorrei consigliare anche di pulirti questo baffo di parmigiana di melanzane che hai ancora, non ti sei pulito bene. Guarda. Ma dove? Guarda, sì, è vero, ti devi pulire bene. Allora, stavamo parlando di grandi talenti. Il ragazzo che vado a presentarvi subito è fonte di discussione fra i musicisti, perché trovare un ragazzo a 20 anni, sebbene figlio d'arte, figlio di musicisti, un ragazzo che a 20 anni suona perfettamente il pianoforte, che suona il contrabbasso, la batteria, le percussioni e soprattutto che canta come canta lui, con un gusto per gli arrangiamenti vocali unico, è veramente merce rara. Sai di chi stiamo parlando? Di Jacob Collier. Jacob Collier, esatto, Jacob Collier, che in questo momento è sotto l'osservazione di molti grandi musicisti, da Pat Metheny agli stessi Take Six a Quincy Jones. Questo ragazzo, chiuso nella sua stanzetta, nella la sua casa lì in Inghilterra, in una stanza piena di strumenti, praticamente da 20 anni non fa altro che suonare. Non credo che neanche gli interessino altri argomenti, tipo le ragazze o andare in bicicletta e fare sport, perché la sua passione è la musica e ce lo dimostra ormai da anni, proponendo per esempio su YouTube dei video dove lui si riprende dimostrando che personalmente suona tutti gli strumenti, facendo arrangiamenti di brani di varia natura, dalle composizioni di Stevie Wonder ad alcuni classici del jazz. Tutti da anni, ormai da 3-4 anni, stiamo aspettando il primo album di Jacob Collier, che ha iniziato a collaborare discograficamente con diversi artisti, e certamente per una casa discografica sarà uno dei musicisti e degli artisti di riferimento. Adesso non so con quale casa discografica ha firmato il contratto, fatto sta che però adesso su iTunes si può acquistare questo suo arrangiamento di Fascinating Rhythm, il cavallo di battaglia di George Gershwin, che è stato suonato dalle grandissime big band del passato come Duke Ellington, Count Basie, lo ha cantato Ella Fitzgerald. Ma questa versione di Jacob Collier mette insieme passato, presente e futuro. L'hai ascoltata? Che ne pensi? È veramente bellissima e soprattutto vi consiglio di andare su YouTube a guardare anche il video, perché è molto interessante anche quello. Allora, apriamo questa puntata del Soundcheck di questa domenica con il grandissimo talento di Jacob Collier. Attenzione, tirate su il volume delle vostre radio in macchina, a casa, ovunque voi siate, per godervi il talento di Jacob Collier. Suona e canta tutto lui da solo, qui al Soundcheck di Radio 24. Sì, qualcosa di impressionante se si pensa che Jacob Collier ha registrato tutto da solo e tra l'altro a casa. E tutto è anche visibile andando proprio nelle pagine di Jacob Collier lì su YouTube, per verificare anche tutto quello che ha fatto e anche la sua evoluzione fisica, perché ha iniziato giovanissimo e oggi ha soltanto 20 anni. Jacob Collier al Soundcheck di Radio 24 per questa domenica lancia il testimone a altri due strepitosi talenti, ma ormai accreditati. Il primo è Raoul Midon, che torna discograficamente con la sua chitarra, con la sua bellissima vocalità, con un album nuovissimo intitolato Don't Hesitate, alcune partecipazioni come quella di Liz Wright, ma soprattutto incontra Diane Reeves in questa composizione originale intitolata Make It Better. Questo è il soundcheck di Radio 24, questa è la nostra grandissima musica. Yesterday's gone and tomorrow looms. I've learned to contemplate the meaning of the afternoons and make it better, make it better. Soundcheck. Il suono della musica. Want you so bad. Need you. Dopo aver apprezzato la partecipazione di Diane Reeves nell'ultimo album di Raoul Midon intitolato Don't Hesitate, la campionessa del jazz di tutti i tempi torna con Beautiful Life, recente pubblicazione discografica, e qui ci fa ascoltare la sua interpretazione molto carina di I Want You, un brano portato al successo ormai tanti anni fa da Marvin Gaye, ma un brano che non è stato scritto da Marvin Gaye, il che significa che ci sono nella musica dei musicisti, dei compositori che continuano a guadagnare un sacco di soldi rendendo magari felici anche i loro eredi, perché i diritti d'autore funzionano a vita, quindi magari i dischi non si vendono più, però ci sono delle canzoni che continuano a racimolare soldini perché vengono interpretate da altri artisti, come il caso di I Want You, composizione di questi due signori Ross and Ware, che hanno fatto la fortuna non solo di Marvin Gaye discograficamente, ma anche di tutti gli artisti che poi hanno interpretato questa bellissima canzone, come Diane Reeves. E ci sono varie vicende legate ai diritti d'autore, cioè di che musicisti, compositori che copiano canzoni di altri, ma c'è una vicenda che è apparsa sui giornali quest'estate molto interessante. Di cosa stiamo parlando, Francesco Tromba? Sì, da un articolo di Giulio De Santis sul Corriere della Sera è venuto fuori che due compositori italiani, Atos Poma e Gianfranco Moffi, si sono appropriati di alcuni dei grandi brani, diciamo, della musica. Si sono appropriati anche di alcune canzoni di Paul McCartney. Addirittura, ma scusa, come hanno fatto? Com'è possibile? Praticamente hanno sfruttato un punto debole della documentazione SIAE, in quanto tramite il fondo DEM loro si appropriavano tranquillamente di alcuni brani in modo da farsi pagare le royalties, solo che sono stati scoperti. Non le royalties, i diritti d'autore. Sì, sì. I diritti d'autore sono stati scoperti quando hanno tentato di appropriarsi anche di alcuni brani di Gershwin, quindi diciamo lì era facile scoprirli. Ma stranissima questa cosa, come si fa? Cioè io che faccio? Vado e deposito Summertime oppure Imagine? Infatti per questo poi sono stati scoperti. È molto strano, che cosa dice l'articolo? Dice che tra l'inizio del 2006 e la fine del 2008 si sono attribuiti attraverso i modelli 112 la paternità di 220 brani musicali trascritti con errori di materiali. Beh, l'articolo li definisce compositori? Sì. Perché non dei furbacchioni, sono per non dire altro. Va bene, allora torniamo alla musica qui al Soundcheck di Radio 24. Ieri parlavamo del tributo che molti musicisti stanno facendo nei confronti del veterano George Duke, infatti lo abbiamo presentato ascoltando l'album recente di Al Jarreau insieme a Dr. John, ma c'è un altro musicista che ha vissuto delle belle stagioni a fianco di George Duke, è il bassista Stanley Clark, che noi abbiamo apprezzato quando eravamo giovincelli insieme a Chico Korea, musicista dotato di grandissimo ritmo, grandissima vena funk, che torna discograficamente con la sua Stanley Clark Band in un album per la Mac Avenue intitolato Up. E fra le varie composizioni originali il signor Stanley Clark ci propone questa sua versione di Brazilian Love Affair, brano scritto da George Duke nel suo periodo brasiliano. Ascoltiamo Stanley Clark, che qui non utilizza il basso elettrico ma il contrabbasso, e in questo arrangiamento scintillante, mi auguro che il tempo a nostra disposizione ci dia la possibilità anche di ascoltare un solo di batteria che ci farà cadere proprio dalle nuvole, qualcosa che tira giù le pareti. Eh sì, è un grandissimo assolo. Soundcheck, il suono della musica. L'abbiamo lanciata, l'abbiamo presentata, l'abbiamo avuta nostra ospite Mayra Andrade dall'album Lovely Difficult pubblicato dalla Sony, grande successo per lei, per questa giovane bella ragazza che tutti vorremmo avere magari come cugina. Anche qualcosa di più. Anche qualcosa di più. Allora, tornano a grande richiesta gli squilli di tromba, ovvero cosa gli appassionati di musica possono seguire dal vivo la prossima settimana partendo dal nostro paese. Cosa succede in Italia con i concerti la prossima settimana? Allora, partiamo da stasera, ci sarà Goran Bregovic a Langhirano in provincia di Parma per la festa del prosciutto crudo. Ah sì, addirittura. Anzi, invece domani, lunedì 15 a Firenze, per Estate al Bargello, ci sarà il trio Servillo, Girotto e Mangalavite. Per il Festival della Chianina? No, in questo caso no. E invece per il Festival Mito, che si svolgerà fra Milano e Torino, al Blue Note a Milano, ci sarà il quartetto di Jason Marsalis. Sempre al Blue Note di Milano, il 18, il 19 e il 20, il quartetto di James Taylor sarà protagonista del locale milanese. Il 18, Renato Sellani sarà alla Salumeria della Musica, sempre a Milano. Ma tutto a Milano, a Roma non succede nulla, o a Bologna, a Torino? No, a Torino l'abbiamo visto, qualcosa c'è. Sì, diciamo che è un periodo in cui Roma, periodo morto. Sì. Okay. Poi da ottobre magari ricominceranno. C'è anche il festival che partirà fra un po'. Sì. Arriviamo a sabato 20 a Pharrell Williams, che sarà al Mediolanum Forum di Assago. Ecco, l'uomo più ricco della discografia internazionale di oggi, Pharrell Williams, arriva a Milano con il suo show al Mediolanum Forum di Assago. E per chiudere c'è Rafael Gualazzi il 20 a Montecatini Terme al Tettuccio, e poi due protagonisti del jazz di oggi in Italia, Paolo Fresu e Gianluca Petrella. Dove? Sempre a Milano per il Festival Mito. Milano. Tutto sì. A Milano. Al Piccolo Teatro Grassi. Allora, torniamo alla musica dopo Mayra Andrade, che ci ha portato nel mondo sonoro caraibico vagamente brasiliano. Noi ci trasferiamo in Brasile con questo album che ha avuto grande successo, anche perché ci sono stati i campionati del mondo di calcio, che non sono stati un granché né per il Brasile né per la nostra nazionale, però come vedi il nostro Conte sta rimettendo in piedi una squadra pare interessante. Speriamo. Speriamo. Comunque la musica ci deve dare soddisfazione, ci hanno dato soddisfazione questi producer che vanno in giro con il nome di Studio Rio, che hanno estrapolato dai master originali le voci di grandi artisti, addirittura Billie Holiday, Bill Withers, Marvin Gaye, Sarah Vaughan e Nina Simone, che qui ascoltiamo in questa versione update di I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. Nina Simone e Studio Rio al soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Oh, your daddy's got money, yeah. And your mom's so pretty, yeah. So hush, little baby. L'opera di George Gershwin, una delle sue composizioni più famose, Summertime, nella versione originale della metà degli anni 90 del pianista inglese Jason Ribello, uno dei protagonisti della scena inglese legata all'acid jazz, quindi alla Talking Loud di Giles Peterson. Jason Ribello, musicista che arriva dalla musica classica, ha suonato tanto jazz e swing per poi approdare anche a produzioni pop come Sidemen, ma produzioni importanti come quelle realizzate in studio e in tournée da Jeff Beck oppure da Sting. Sì, tanti anni in tournée con Sting, credo che Jason Ribello sia riuscito a mettere da parte anche un bel po' di soldini, perché quando partecipi a un tour di questa portata certamente ti viene il sorriso. Forse ha anche comprato casa e l'ha pagata anche in contanti senza aprire un mutuo. Sì, considerando che ha anche suonato con altri grandi come Peter Gabriel o Phil Collins, penso che abbia messo da parte un bel gruzzolo, no? Certo, perché poi quando metti da parte un gruzzolo così ti puoi permettere di produrre un disco così come piace a te. Sì, almeno hai questa libertà di farlo. Hai questa libertà e lui infatti lo ha realizzato. Lo ha realizzato qualche mese fa, o perlomeno qualche mese fa, è stato pubblicato Anything But Look, ultima fatica discografica per Jason Ribello, album difficile da trovare su CD, ma sicuramente via iTunes riuscirete a procurarvi anche alcune di queste tracce, perché questo è il bello dell'MP3. Non puoi anche non comprare tutto il disco, ma comprare soltanto quello che ti piace con il preascolto. Ascolto delle tracce. Sì, così almeno uno decide cosa merita veramente. Decide, si fa la sua compilation e risparmia in questo modo. Allora, ascoltiamo l'arte e il talento di Jason Ribello con il suo pianoforte, che scrive questa composizione intitolata New Joy e chiama per l'interpretazione vocale una cantante fra le più affermate lì in Inghilterra, che è la bravissima Joy Rose. Jason Ribello al soundcheck di Radio 24. Joy is here to stay. No more loneliness, the fear has gone away. Dal pianoforte di Jason Ribello con la voce infinita di Joy Rose in questa nuova composizione dal titolo New Joy, tratta da Anything But Look di Jason Ribello, chiudiamo questa prima parte del soundcheck e poi ci risentiamo a partire dalle 19:15 per il momento più jazz della nostra prova del suono. Chiudiamo restando in Inghilterra e tornando ad apprezzare una voce importante per il periodo dell'acid jazz, metà anni 90, protagonista anche lui delle stagioni importanti della Talking Loud Loud Records legata a Giles Peterson, producer eccellente, musicologo che ha lanciato tanti artisti in Inghilterra e ha anche incentivato in qualche modo il successo di alcune star del contemporary R&B americane come Erykah Badu e D'Angelo, per esempio. Allora, chiudiamo questa prima parte del soundcheck con Omar dal nuovo album intitolato The Man. Il brano si intitola Simplify. Ci sentiamo più tardi, sempre qui su Radio 24. Grazie Francesco, tu ci sarai anche nella seconda parte? Certo, ci sarò anch'io. Bene. All at once I see something in your eyes. I don't wanna leave, but I can't stay away. And if you would be mine forevermore, yeah. Check one, two, mic, check one, two. Soundcheck, il suono della musica, di DJ Telesforo. Good evening ladies and gentlemen, siete di nuovo in contatto con il soundcheck, la prova del suono di Radio 24, Gigi Telesforo in compagnia di Francesco Tromba per questa seconda parte della domenica dedicata ai suoni più jazz. E vorrei dare il via proponendovi voci femminili e non le solite Diane Reeves, Diane Shore oppure Diana Krall, tutte le Diane del mondo del jazz, ma vi vorrei parlare, far ascoltare soprattutto delle cantanti non ancora così famose nel nostro paese, ma che spero prima o poi approderanno nei piccoli e grandi festival del nostro paese, per esempio Umbria Jazz. E questa è una raccomandazione che faccio al mio amico Carlo Pagnotta, che non credo abbia mai ospitato il talento di questa ragazza, credo trentenne, Cyril Aimé. Questa ragazza arriva dalla Francia, papà francese, mamma caraibica, sotto casa sua c'erano musicisti che proponevano swing manouche, si appassiona al genere, ne diventa un interprete per poi partecipare alla vocal competition che si tiene durante il festival di Montreux, e credo lo abbia anche vinto. Sì, lo ha vinto. Lo ha vinto, ecco, con una voce molto esile, una bella carica interpretativa, e c'ha anche un bel fraseggio di jazz questa Cyril. Ahimè, qualche anno dopo si presenta anche a un reality show lì in Francia, ovvero? Sì, una sorta di American Idol francese, si chiama The Star Academy. Star Academy, che non vince naturalmente, con la vocalità esile e anche con una buona forza interpretativa, però non lo vince, si classifica, va in finale. Sì, va in finale comunque. Va in finale, ma la finale la vince qualche anno dopo, perché inizia a farsi conoscere anche dai musicisti americani, si trasferisce a New York, dove viene messa sotto contratto ultimamente dalla Mac Avenue, che è una delle etichette più attente ai nuovi talenti in giro per il mondo, e quindi viene pubblicato questo It's a Good Day, un album pieno di chitarre ma usate molto bene, nel quale Cyril Aimé si cimenta in vari generi, dallo swing manouche al jazz contemporaneo, fino a interpretare per esempio una canzone famosissima come quella scritta da Rod Temperton per Michael Jackson, ovvero Off the Wall. Allora ascoltiamo in apertura del soundcheck, in questa seconda parte dedicata al jazz, la voce di Cyril Aimé in Off the Wall. There ain't no rules, it's up to you. It's time sì, una bella sorpresa, Cyril I. Macon, Off the Wall, brano scritto da Rod Temperton per Michael Jackson, brano tratto dal nuovissimo album per la Mac Avenue intitolato It's a Good Day. E c'è un'altra novità che riguarda la vocalità femminile, una voce che arriva direttamente dalla Svezia, ma ormai lei potremmo considerarla una veterana, una voce accreditata, quella di Rigmor Gustafsson, bravissima cantante, anche lei non ha quella voce vicina alle sonorità delle sorelle nere, ha una voce bianca ma utilizzata molto bene, e in questo album che si intitola When You Make Me Smile la signora Rigmor Gustafsson si cimenta anche nella composizione e scrive niente male, mio caro Francesco Tromba. Io vorrei farvi ascoltare proprio il brano che apre questa produzione per la ACT, a brano intitolato Call Me Lonely, un brano molto tenero, molto ben arrangiato, perché con Rigmor Gustafsson, oltre ai suoi musicisti come ritmica, viene anche coinvolta la Dala Sinfonietten, ovvero un organico orchestrale ridotto con tanto di archi, violini e via dicendo, che supporta con ottimi arrangiamenti la vocalità e questa composizione di Rigmor Gustafsson, alla quale presto manderò una mail per farle i miei complimenti. Eccolo qui, Call Me Lonely, brano che potrebbe far parte senza problemi di una colonna sonora di un film, una commedia brillante americana a lieto fine. Rigmor Gustafsson al soundcheck di Radio 24. I dreamt of his face as I left him a trace of breadcrumbs leading the way. It may be not today, not tomorrow, but someday you know my name, you know my name, you know my name is known. Sì, la cosa bella di questa Rigmor Gustafsson è che è sorridente non solo nella copertina di questo disco molto carino When You Make Me Smile, ma è sorridente proprio nella vocalità, interpreta tutte le sue composizioni sorridendo, e questo si ascolta proprio una traccia dopo l'altra. Te ne sei accorto che sorrideva? Sì, sorride, c'è un gran bel sorriso. Un gran bel sorriso, la signora Rigmor Gustafsson. Allora, parlavamo di voci e arriva invece una veterana, anche lei Freda Payne non è conosciuta nel nostro paese. No, però in America penso sia molto conosciuta. È accreditata, beh, insomma, è una cantante che ha militato nella big band di Quincy Jones, mica stiamo parlando di una cantante da balera, eh? Non è la prima venuta sicuramente. Certo, ha anche i suoi ben 71 anni portati molto bene, e nella copertina, come spesso succede, appare proprio come una diva di Hollywood. Sì, diciamo che forse c'è anche un po' di Photoshop. Forse sì, comunque chi non fa Photoshop al giorno d'oggi? Come Back to Me Love si intitola l'album di Freda Payne, con una bellissima big band alle spalle, qui in un super bluesacchione di Eddie Miller, interpretato più volte anche dalle star del blues come B.B. King. Qui nella voce di Freda Payne il brano si intitola I'd Rather Drink Muddy Water, cioè piuttosto che stare con te preferisco bere fango. Baby, we ought to have ourselves a little talk. I think I'll pack up my things and walk. I know a dollar goes from hand to hand, but before I let you go from one man to one man, I'd rather drink muddy water, sleep in a hollow log. Soundcheck, il suono della musica. Contredanse, brano scritto da Jacques Schwartz-Bart per l'album capolavoro jazz Racine Haïti, con la partecipazione della vocalist Stephanie McCasey. Non perdetevi questa pubblicazione di Jacques Schwartzbart, musicista sassofonista della nuova generazione, ormai cinquantenne, anche lui che ha militato anche in band di contemporary R&B come D'Angelo e Erykah Badu, ma molto richiesto lì a New York, e soprattutto in questo momento sta vivendo un periodo di grande importanza musicalmente parlando in Francia. In Francia è molto ben accreditato, probabilmente anche per le sue origini haitiane. Da Jacques Schwartzbart, qui al Soundcheck di Radio 24, passiamo a un'altra recentissima pubblicazione che ha come protagonista il trombettista Sean Jones con il suo quartetto, album intitolato naturalmente Improvise, perché se si parla di jazz si parla di improvvisazione. Improvvisazione che realizza nelle tracce prodotte per questo album insieme a Orrin Evans al pianoforte, il bravissimo Luke Curtis al contrabbasso e il formidabile Obed Calver alla batteria, batterista che abbiamo appena apprezzato in contradance di Jacques Schwartzbart. Allora, che notizie abbiamo, mio caro Francesco Tromba, di questo signore chiamato Sean Jones, nato il 28 di maggio, il 29 di maggio del 1978, giovanissimo. Sì, è un trombettista e compositore ed è stato, ha fatto parte anche del lavoro di Nancy Wilson, che ha vinto il Grammy nel 2007. Tra l'altro lui fa parte dell'orchestra Jazz at Lincoln Center, quella famosa con cui suona spesso Wynton Marsalis. No, è proprio l'orchestra diretta da Wynton Marsalis, e quindi pensate, per un trombettista affiancare Wynton Marsalis che cosa significa. E tra l'altro, se un musicista fa parte di quell'orchestra è senz'altro uno con... con le palle, dai, diciamolo pure senza problemi. Sean Jones lo ascoltiamo con tutta l'energia di un musicista della sua generazione in un bluesacchione, una sua composizione intitolata I Don't Give a Damn Blues. Soundcheck, il suono della musica. Put on some speed, follow my lead. Oh, how I need, oh, how I need someone to watch over me. Tutti la ricordano per la sua interpretazione di At Last, ma personalmente ho sempre preferito dal repertorio di Etta James questa sua versione di Someone to Watch Over Me, di brano scritto da George Gershwin. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione per il nostro soundcheck, per chiudere questa seconda parte della domenica dedicata al jazz, e vorrei farlo presentandovi un campione della batteria di tutti i tempi, un musicista che ne ha fatte di cotte e di crude e che continua a produrre ottima musica. Vi sto parlando di Hervey Mason. In molti lo ricorderanno per esempio con Herbie Hancock, proprio nel periodo quello jazz funk di Herbie Hancock. Infatti Hervey Mason è anche uno dei tre compositori di un classico del repertorio di Herbie Hancock, che è Chameleon, uno fra i brani più famosi insieme a Watermelon Man e a Cantaloupe Island, brano scritto con Herbie Hancock e Benny Maupin, sassofonista che è presente anche in questa registrazione. Bene, che cosa fa Hervey Mason? Si chiude in studio di registrazione, nuove composizioni, ma anche una versione update proprio di Chameleon, brano che dà anche il titolo a questo nuovissimo, recentissimo album, che consiglio di acquistare perlomeno agli appassionati del genere, fra funk e fusion. Insomma, c'è da divertirsi ascoltando le vicende musicali e ritmiche di Hervey Mason. Allora, siamo ai saluti, mio caro Francesco Tromba. Come ti sei trovato in questo primo weekend qui al Soundcheck? Bene, devo dire che è piacevole ritornare a lavorare dopo. Oh, finalmente. E tra l'altro tu hai fatto anche un bel mese di vacanza. Io no, perché sto ancora facendo concerti. Però la musica e il ritmo ci danno la giusta energia. Eh sì, è fondamentale per ricominciare a lavorare. Ci risentiamo durante il prossimo weekend. Vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it, ma troverete anche tutte le informazioni sui brani in scaletta nelle pagine del sito Groove Master Edition .it. Eccolo, sta partendo Chameleon con Hervey Mason. Grazie a tutti voi, buona settimana, buon lavoro e soprattutto buona musica da Gigi Telesforo. Arrivederci a tutti, a presto.